Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica con questa musica, Incontri ravvicinati dal film di Steven Spielberg. Iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno a Gianni Milesi. Buongiorno. Gianni Milesi, presidente del CESVI. CESVI, che cos'è? Spieghiamolo subito. CESVI è un acronimo un po' difficile, come tutte le sigle italiane, che sta per cooperazione e sviluppo. Una mission impossible, cioè il tentativo di trasformare l'aiuto assistenziale in qualche cosa che porti, appunto, come dice la parola, sviluppo, e non semplicemente tendere la mano, ma, parafrasando il proverbio cinese, famoso canna da pesca anziché il pesce all'affamato. Cercare, appunto, di aiutare, di incontrare, quindi da qui la scelta anche del brano, Incontri ravvicinati, perché si incontrano persone lontane. E anche educare la nostra società a questo incontro, perché c'è chiusura, incapacità di immaginare i destini del mondo con 7 miliardi di abitanti e in continua crescita. E Incontri ravvicinati, fra l'altro, per me è anche un ricordo, perché oltre che un film che mi aveva colpito, era anche uno spot pubblicitario che facemmo nel 92 proprio per incoraggiare all'incontro, alla conoscenza, in un momento in cui l'Italia stava cominciando a confrontarsi con l'immigrazione. Qual è stato l'incontro ravvicinato che ha portato Gianni Milesi ad occuparsi di cooperazione internazionale e a diventare, all'interno del CESVI, poi presidente? Ma è stato proprio il mio mestiere. Dopo un'adolescenza fatta contestare il movimento studentesco e poi un po' di sindacato, il mio lavoro in azienda è stato quello di occuparmi di comunicazione, di relazioni pubbliche, e la stessa cosa l'ho fatta per il CESVI, per 10 anni da volontario e poi da direttore della raccolta fondi e alla fine da presidente. Quindi CESVI è una realtà che, mi diceva, è nato negli anni 80. Nell'85. È nato da una delle grandi costole della solidarietà italiana. Tutto l'associazionismo italiano fa riferimento alle origini religiose o politiche, insomma. In quel caso si trattava del Comitato Italia-Nicaragua, dell'internazionalismo proletario, di quella solidarietà lì che accompagnava le rivoluzioni e la caduta delle dittature in America Latina. Però poi bisognava rimboccarsi le maniche e immaginare lo sviluppo, non bastava ottenere la libertà, bisognava poi far funzionare degli stati, e quindi lì si trattava di aiutare, appunto, quei paesi, quindi portare là i trattori, fare riforme agrarie, fare queste cose qui. E allora non bastava più l'internazionalismo, serviva un'organizzazione pragmatica, seria, efficace, che gestisse gli aiuti, la cooperazione. Ecco, aveva quindi una connotazione un po' politica all'inizio, adesso è una realtà al di sopra delle parti. Ma direi che l'ha persa subito, nel senso che CESVI nasce, sì, con questa connotazione politica, poi in realtà fa tesoro di un'esperienza nel mondo cattolico, del movimento laici America Latina, si ispira a questa, e scopre una laicità, come dire, un po' fuori dai confini dell'Italia, un po' anglosassone, insomma, qualcosa che ha più a che fare con la trasversalità, cioè non importa il credo politico, la fede religiosa, lo status sociale, il livello culturale, l'importante è che siamo tutti qui per un obiettivo condiviso. E da quanti anni è nel CESVI Gianni Milesi? Beh, 10 anni di volontariato e ormai 11 anni di lavoro. Di lavoro a tempo pieno. Com'è cambiato negli ultimi 20 anni l'approccio anche delle persone verso queste organizzazioni, i contatti in Italia? C'è maggiore difficoltà o c'è maggiore apertura, c'è maggiore disponibilità, c'è maggiore aiuto? C'è più un aiuto finanziario o più un aiuto in termini concreti di disponibilità e volontariato? Per me gli anni epici sono stati quelli che ho fatto da volontario. E lì, occupandomi di comunicazione, è stato bello raccogliere giornalisti, chiedere favori, articoli scritti pro bono, chiedere a registi di lavorare pro bono, chiedere a case di produzione di lavorare pro bono, chiedere a pubblicitari di lavorare pro bono, ecco, anche tanti altri professionisti in vari campi. Io mi occupavo di quello e quindi parlo del settore della comunicazione, però c'è stato questo grosso slancio, e quindi questo ha a che fare, appunto, con la generosità degli italiani. Detto questo, però, lavorando in un'organizzazione internazionale, devo anche denunciare una tradizione italiana a imbrodarci un po'. Cioè, noi parliamo della nostra generosità e su questo abbiamo ragioni da vendere. Però poi, perché la generosità si trasformi in qualcosa di concreto, occorre anche l'organizzazione. Certo. E qui siamo deficitari, siamo molto più indietro di qualsiasi altro paese occidentale. Ecco, ma ci sono molte organizzazioni che lavorano attorno a questi progetti, attorno alla solidarietà, con presenze anche professionali specializzate nei paesi del terzo mondo. Forse troppe o troppo poche? Ma forse mai troppo poche? Ma mai troppo poche, questo è vero. Però diciamo che non ci sono grandi organizzazioni in Italia. Voglio dire che l'esperienza delle organizzazioni piccole, quelle appunto completamente gestite da volontari, quelle che collegano in una sorta di gemellaggio ideale una realtà comunitaria qui e una realtà comunitaria oltremare, sono esperienze bellissime. Sono testimonianze indispensabili. Detto questo, però, poi bisogna anche essere efficaci, e per essere efficaci occorre muovere delle dimensioni più grosse. Le organizzazioni come il CESVI nel resto del mondo sono grandi 5, 10, 20 volte tanto le nostre. Cioè Terre des Hommes, Médecins Sans Frontières, Oxfam, CARE, ActionAid. Sono tutte organizzazioni molto più grandi di noi, molto più strutturate di noi, ma noi lo vediamo proprio sul campo, in alcuni paesi dove vediamo l'efficacia, non solo i risultati del singolo progetto, ma l'efficacia su quel territorio deriva dal fatto che abbiamo una certa massa critica, del fatto che ci occupiamo più di un settore di attività, non di un singolo progetto, ma di tanti progetti, e allora lì la nostra efficacia diventa più significativa. Beh, in fondo è anche uno specchio dell'Italia. L'Italia è un paese che non ha grandi imprese multinazionali, se non poche, si conta sulle dita di una mano, un nucleo di piccole e medie imprese. Quindi anche in questo campo la realtà è questa, una serie di medie imprese che lavorano con grande volontariato, con grande passione, ma che di fronte agli organismi internazionali restano piccoli. Questo è un po' un handicap quando vi presentate appunto in paesi esteri. Assolutamente, noi abbiamo la fortuna di avere incrociato un grande network europeo di organizzazioni nazionali, non multinazionali, che appunto quindi hanno le stesse caratteristiche nostre, sono molto più grandi di noi, e devo dire che in questa esperienza del network abbiamo avuto conforto delle nostre ragioni, ed è proprio questo specchio che lei descriveva del sistema Italia, su cui è importante vedere il contributo che da italiani possiamo dare. Il fatto che un'organizzazione tedesca, la più grande organizzazione tedesca, affidi i soldi al CESVI, un'organizzazione italiana in Pakistan, è motivo d'orgoglio. Perché? Perché lì ci sono, insomma, è una situazione pesantissima, difficilissima, e la nostra empatia, la nostra creatività, la nostra capacità di adattamento alla situazione sicuramente viene premiata. Però dobbiamo imparare dai tedeschi a fare organizzazione per avere le spalle più larghe. In quanti paesi siete presenti adesso come... Purtroppo in tanti rispetto al nostro amministrato, siamo presenti in una trentina di paesi, in alcuni di questi siamo davvero un'organizzazione internazionale che pesa in quella realtà, in tanti altri siamo la classica organizzazione italiana con un bel progettino, però appunto limitato. Ai confini di quel progetto. Ecco, i progetti più forti in che paesi sono? I paesi di punta, i paesi principali in cui operate, in cui avete un'attenzione magari crescente in questo periodo? Ecco, c'è stata tutta un'attenzione all'Africa che ovviamente ci ha condizionato, quindi le grandi pandemie in Africa sono state un impegno del decennio precedente. In questo momento la tendenza più significativa da parte nostra è operare nei paesi islamici, e devo dire con successo, con particolare successo. La nostra appunto capacità di italiani di dialogare col mondo musulmano è maggiore delle altre organizzazioni. In Pakistan siamo diventati una grandissima organizzazione, in Tagikistan siamo la prima ONG internazionale presente, e in questo momento ci stiamo impegnando nei paesi arabi e in Libia in particolare. Incontri. Ancora sulle note di Incontri ravvicinati di Steven Spielberg, il film famoso, riprendiamo l'incontro con Gianji Milesi. Buon pomeriggio ancora, Gianji Milesi. Buon pomeriggio. Gianji Milesi, presidente della Fondazione CESVI, un'organizzazione umanitaria di volontariato, ma professionale. Quanti sono i cooperanti a tempo pieno e quindi anche pagati? Le persone pagate in realtà sono una miriade, perché viaggiamo tra i 600 e i 1000, però la gran parte del personale impiegato all'estero è personale nazionale e locale, perché nella nostra mission, certo, c'è questa necessità proprio di cooperare con chi ha bisogno perché non abbia più bisogno di noi. Allora già nella fase di costruzione dei progetti cerchiamo di utilizzare le risorse locali, anzi di investire sulle risorse locali, diciamo sul genius loci, sulle risorse, sulle ricchezze che troviamo lì. Poi c'è del personale internazionale, ovviamente, che, come si dice in azienda, l'occhio del padrone è indispensabile, soprattutto nella gestione economica. Questo personale internazionale viaggia tra i 100 e 150 persone, una piccola parte impegnata in Italia, nella nostra sede internazionale che sta a Bergamo, e il resto in giro del mondo sotto come espatriato, cooperante. Quindi CESVI, fondata nel 1985, abbiamo detto, sede a Bergamo. Che giro d'affari avete, se la parola giro d'affari non è... Sì, l'amministrato sono sui 25 milioni, una dimensione importante in Italia. In Italia siamo considerati grossi. Io continuo sempre a dire, guardate che non conta quanto siamo in Italia, conta quanto siamo nel mondo, e nel mondo siamo piccoli. È difficile raccogliere questi 25 milioni per spenderli a fin di bene. Ma metà li raccogliamo all'estero, perché purtroppo l'Italia sta diventando un paese sempre più insensibile al tema della cooperazione internazionale. Questo non è giustificato dalla crisi economica, perché la crisi economica riguarda tutti i paesi occidentali. Se ci confrontiamo al paese più simile a noi, che è la Gran Bretagna, Cameron ha fatto una manovra molto pesante e ha aumentato i fondi per la cooperazione internazionale, perché si ritiene che sono questi la vera sfida, più ancora degli eserciti, nelle relazioni internazionali. E si è visto anche in questa vicenda della Libia. Noi, quando siamo entrati a Misurata, abbiamo ricevuto gli applausi e gli abbracci della popolazione, però abbiamo anche visto che ogni angolo di strada c'era scritto Merci Sarko. A noi dispiace che non ci fosse stato Merci Italia. Ecco, indubbiamente l'Italia su questo fronte, sui fondi pubblici stanziati per la cooperazione internazionale, è un po' una pecora nera. È una pecora nerissima. Siamo stati la pecora nera d'Europa, oggi siamo la pecora nera dell'OCSE. Dopo di noi c'è solo la Corea del Sud. Come soldi pubblici investiti. Come percentuale dei finanziamenti per la cooperazione sul prodotto interno lordo. Nonostante che si dica, dobbiamo cercare, anche di fronte al fenomeno dell'immigrazione clandestina, degli sbarchi famosi a Lampedusa, di favorire la crescita dei paesi da dove vengono questi immigrati. Si sta facendo poco loro su questo fronte. Assolutamente. Noi vediamo gli altri paesi stanziare molte più risorse, anche appunto nel caso della Libia. Ci sono paesi che stanziano più risorse del nostro. Questo è proprio perché gli altri paesi credono in questa politica, ma proprio anche nell'approccio. Quando l'aereo di MSF, di Medici Senza Frontiere, fu fermato due volte per atterrare ad Haiti, direttamente il primo ministro francese Sarkozy telefonò alla Clinton protestando perché l'aereo di una ONG francese. Ecco, ci piacerebbe che un'attenzione analoga fosse dedicata anche alle nostre organizzazioni non governative. Ecco, dicevamo prima anche che l'Italia comunque ha una buona immagine, e mi diceva, nei confronti dei paesi musulmani siamo accolti bene, riusciamo ad essere accettati, a favorire un dialogo, a fare nuove iniziative. Anche questo vale per la Libia, dove appunto gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno portato drammaticamente alla ribalta questo paese. Sì, il 3 di marzo abbiamo fatto la prima distribuzione a Bengasi, quindi immediatamente dopo la rivoluzione siamo diventati operativi e abbiamo trovato un tessuto di giovani completamente informatizzati, che dialogavano col mondo, che ci chiedevano: ma cosa sono le ONG? In realtà avevano già una specie di Caritas musulmana che ha funzionato, tant'è che noi siamo, ripeto, immediatamente diventati operativi con la distribuzione, perché avevano già le liste dei poveri, quindi è stato facilissimo organizzare questa attività. Ora, devo essere franco, stiamo parlando di un paese ricco, certo, ricco, cioè voglio dire, andare a Bengasi è come andare a Rimini, cioè, è un paese dove i libici facevano lavorare gli africani subsahariani e loro potevano vivere assolutamente di una ricchezza splendente. Poi ovviamente i dittatori sono sempre incapaci di distribuire anche quella ricchezza che hanno, e quindi alla fine il coperchio è saltato. Non pensiamo che il nostro lavoro lì sia quello di fare assistenza, anche se in alcuni casi attività di ricostruzione saranno indispensabili. Ci sono delle città ferite, delle case distrutte, degli interi quartieri distrutti, quindi ci sarà anche del lavoro pratico, però soprattutto quello che vogliamo fare noi è quello che in termini tecnici si chiama capacity building, cioè aiutare la società civile a ricostruirsi. E credo che questo sia importante, e credo che il nostro mondo occidentale, i nostri governi dovrebbero guardare con più attenzione all'attività che che le organizzazioni come le nostre fanno, perché si dice da che parte andranno? Beh, insomma, anche noi abbiamo un piccolo compito, no? Sempre nella logica appunto di aiutare questi paesi, queste popolazioni ad aiutarsi da sole, però appunto per aiutarsi da sole devono avere i mezzi, devono avere gli strumenti, devono avere le conoscenze, quindi sì, portare queste conoscenze è un compito fondamentale. Ma c'è un'esperienza pratica che mi piace raccontare, perché c'è anche stata testimonianza da un suo collega giornalista televisivo. In quel caso c'è un film dove proprio si vede il nostro lavoro in Tagikistan. Noi ci occupiamo di acqua pulita, perché il Tagikistan è stato, oltre che povero e abbandonato, è stato rovinato dall'industrializzazione pesante sovietica, quindi tutte le falde sono inquinate, noi li portiamo in giro acqua pulita, e l'acqua pulita, come probabilmente le persone della nostra età ricordano, è indispensabile, certo, per evitare malattie come il tifo, per esempio, che invece là sono endemiche. Allora, in queste attività che noi facciamo, perché ovviamente il nostro compito principale è sempre quello educativo, quindi facciamo un progetto sull'acqua, insegniamo come canalizzarla, come portare l'acqua pulita nei villaggi, facciamo lavorare i villaggi stessi, non è che noi ci sostituiamo a loro, sono loro che tirano queste condutture facilissime con queste nuove tecnologie come il Lego, no? Fare un acquedotto oggi è un gioco da ragazzi rispetto ai tempi che furono. Ecco, però poi c'è l'attività educativa, allora c'è la nostra infermiera che ovviamente porta il velo in rispetto della cultura locale, che va lì e fa vedere il bambino che sta male, si fa dell'animazione, tutti capiscono, eccetera eccetera, che ha il tifo. Ma il tifo da dove viene? Il tifo viene dall'acqua, e quindi bisogna usare l'acqua pulita, e quindi non bisogna mangiare la pagina del Corano. E il mullah che viene lì e ci ringrazia. Ecco, io credo che questa sia la nostra... Ci sono anche appunto soddisfazioni di questo, sì, tipo. Qual è stato uno dei, diciamo, dei successi o delle operazioni portate a termine che le ha dato più soddisfazione? Vabbè, ce n'è una che è grandiosa, nel nome stesso, Takunda, che in lingua shona vuol dire abbiamo vinto. È un bambino che ormai è diventato grande, cresce sanissimo da una mamma sieropositiva, una donna coraggiosa che si è recata in ospedale avendo perso il primo bambino e dice: voglio che il mio bambino nasca sano. E il nostro personale le ha detto: guarda che tu potresti essere sieropositiva. Lei, pur di salvare il suo bambino, si è iscritta al nostro progetto, è un protocollo per la prevenzione materno-infantile. In che paese questo? Questo in Zimbabwe, nel 2001, il 9 maggio è nato questo bambino sano, e sua mamma, ancora prima che facessimo il test, l'ha battezzato Takunda, che in lingua shona appunto vuol dire abbiamo vinto, perché per lei era già vinta la battaglia. Ci tengo a dire che questa donna oggi parla inglese, ha studiato l'inglese, ha studiato e si è diplomata infermiera, e oggi lavora nello stesso ospedale dove ha salvato il suo bambino e per salvare i bambini degli altri. L'AIDS è uno dei grandi problemi dell'Africa. Voi avete nuovi progetti su questo fronte? Ma il progetto più innovativo è stato questo, perché il problema dell'Africa è molto complesso nella prevenzione della sieropositività. Ci sono tante concause: la povertà, la mancanza dei sistemi sanitari, l'ignoranza, i governi che hanno preferito negare la malattia e dichiarare che fosse un'invenzione delle big pharma e non la conseguenza di un'infezione, gli stregoni, insomma c'erano tante cose che si compenetravano, probabilmente anche una maggior diffusione, proprio una minor resistenza alla malattia da parte delle persone e delle donne in particolare. Ecco, contro tutte queste difficoltà abbiamo avuto fortuna, perché siamo partiti con questo protocollo della trasmissione materno-infantile, come dire, sapendo che potevamo gestire una cosa seria, però non pensavamo che avremmo cambiato la storia della prevenzione dell'AIDS. Invece così è successo, perché queste donne, a cui non abbiamo mai promesso in quegli anni, oggi lo facciamo, ma in quegli anni non abbiamo mai promesso la cura per loro, semplicemente abbiamo promesso la salvezza dei loro bambini. Ecco, queste donne hanno sfidato i pregiudizi, i mariti, i villaggi, le famiglie, sono state cacciate dalle loro abitazioni, ma hanno, pur di salvare i loro bambini, hanno costruito il primo esercito, la prima resistenza all'AIDS in Africa. Stiamo avviandoci alla conclusione. C'è posto per volontari? Chi volesse fare il volontario, quanto tempo come minimo deve spendere per aderire, per partecipare a una delle vostre iniziative? Beh, volontariato in Italia sì, c'è posto ed è molto facile. Volontariato all'estero è molto difficile, anche se abbiamo cominciato a inserire dei volontari. Ci sono dei volontari, ma super professionalizzati. Cioè, la selezione per entrare al CESVI è durissima, però poi si aprono delle porte alle Nazioni Unite e alle agenzie internazionali. Per chi vuole saperne di più, www.cesvi.org. Grazie a Gian Gimilesi, presidente del CESVI, organizzazione internazionale, di essere stato con noi. Abbiamo fatto una panoramica appunto dell'impegno anche italiano italiano, che è una cosa che ci fa onore, per lo sviluppo di quello che si chiama e viene chiamato il terzo mondo. Grazie anche a Fabio Cantadori in regia, a Stefania Tagliaferri, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.